Io sono il capone della mafia. Io sono il figlio della mia mamma. Tu sei uno stronzo di merda. È un filo di Troia in Venezia. Venezia, vai meu sotro! Lo tengo preparado, ya tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un seis a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos. En la playa. ¡Muchas gracias! ¡Vámonos de borrachera todos! Thank you.